maari tiki uhao loko mos marhite ngolomi di panatava si pisur nauli tarahu tuolomi marjanji ho tua. Bintang nadi langit.